24, la storia. La Valle dell'Eden, Gioventù bruciata e Il gigante, tre titoli usciti tutti nel giro di un anno che hanno lasciato un segno indelebile a Hollywood. Tre film che hanno lanciato un divo diventato leggenda. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di James Dean, che il 30 settembre del 55, a soli 24 anni, si schianta con la sua Porsche. E la sua morte fa dell'attore un'icona, il simbolo di una gioventù inquieta che per la prima volta osa sfidare il conformismo e ribellarsi ai genitori. Il simbolo di un'America nuova uscita vittoriosa dalla Seconda Guerra Mondiale, ma che fatica a capire le nuove generazioni e la loro voglia di cambiamento. Nato a Marion, in Indiana, l'8 febbraio del 31, Dean trascorre la sua adolescenza a Fairmont, per poi trasferirsi in California. Da uno spot televisivo per la Pepsi Cola ai corsi di recitazione dell'Actor Studio di New York, dopo alcune comparse in TV, arriva il primo trionfo sulla schermo con La Valle dell'Eden. Il film gli varrà la prima nomination postuma nella storia degli Academy. Nello stesso anno, il 55, James Dean interpreta anche Gioventù bruciata e Il gigante. Cambiano i personaggi, ma lui è sempre lo stesso, un giovane arrabbiato e solitario, incurante del proprio fascino, sempre alla ricerca di nuove emozioni. Quale consiglio potresti dare ai giovani che guidano? Al volante andateci piano, la vita che si salva potrebbe essere la mia. È il 30 settembre 1955. James Dean, diretto a Salinas, corre sulla strada per l'ultima volta al volante della sua Porsche. Il divo di Gioventù bruciata ha fretta di diventare una leggenda. Ce ne parla il regista Alan Hodge. Ad Hollywood, ogni volta che si parla di qualche giovane attore, si sente dire sempre «sarà il nuovo James Dean». Ormai è entrato nel linguaggio comune. James Dean. E lei è anche la più bella donnina che abbiamo visto da queste parti in tanto tempo. Sicuro? Penso che donne come lei siano rare. Oh, grazie, Jed. È un bellissimo complimento. Alla sua morte, James Byron Dean è ancora un divo emergente. Ha appena completato le riprese del suo terzo film, ma gli sono bastati tre ruoli insieme alla sua particolare personalità a renderlo l'icona del ribelle, un'icona che lascerà un segno indelebile a Hollywood. In pochi sanno che Dean è rimasto a Hollywood per soli 16 mesi e che ha recitato in soli tre film importanti. Marilyn Monroe e Elvis Presley hanno avuto una carriera molto più lunga della sua. Se non fosse morto, oggi probabilmente sarebbe soltanto un altro vecchio attore. Invece è morto nel momento giusto e in maniera spettacolare. Una morte del genere è sempre una disgrazia, soprattutto se a morire è un ragazzo di 24 anni, ma la cosa eccezionale è che nessuno è rimasto così famoso per tanto tempo dopo la morte. Avete sentito lo scrittore Joe Ames e il regista Alan Hodge. Vivi in fretta, muori giovane e lascia un bel cadavere. Era una delle frasi preferite di James Dean. A parlarcene è il cugino Marcus Winslow. Jimmy ha sempre avuto molta fiducia in se stesso. Diceva sempre a mia madre e a mio padre che se avesse avuto la minima occasione l'avrebbe sfruttata. Era determinato ad avere successo in fretta. E in effetti, ancora prima di compiere 24 anni, aveva già fatto tre film. Quindi si può dire che è riuscito nel suo intento. Ma lui era così. Era molto determinato. La carriera di James Dean inizia nel 1954. È in quella primavera che il quacchero dell'Indiana gira il suo primo film. A dirigerlo è uno dei registi più affermati del momento, Elia Kazan. Ce ne parla lo scrittore William Best. Kazan lo aveva notato. Egli aveva fatto un provino a New York per la Valle dell'Eden. Il suo diretto concorrente per quel ruolo era un giovane attore di nome Paul Newman, ma per quella parte la spuntò Dean. La Warner, che produce il film, intende scoprire nuove personalità, lanciare nuovi talenti, creare nuove star. Nella Valle dell'Eden, tratto dal romanzo di John Steinbeck, James Dean è Cal, un ragazzo difficile e tormentato. La sua interpretazione è stata molto coinvolgente. Il personaggio di Cal era molto vicino alla persona che Jimmy era davvero nella realtà e Kazan è stato molto intelligente. Lo ha intuito, glielo ha tirato fuori e lo ha usato per il suo film, tirandogli fuori tutto. A Hollywood, quello era il momento in cui lo stile di recitazione si stava trasformando. Attori come Marlon Brando e Montgomery Clift hanno cambiato radicalmente lo stile dei film americani. C'è stato uno stravolgimento completo. James Dean era appena diventato una star di Hollywood, ma credo che sia stato anche l'ultimo pioniere americano, perché le cose che faceva, anche a cineprese spente, non le ha mai fatte nessuno. Se un attore fa una scena esattamente come dice il regista, non sta recitando, sta seguendo delle istruzioni. Una cosa che gli piaceva molto era stare seduto a guardare le persone per studiarne il comportamento. Osservava persone di tutti i tipi. Lo faceva per usarle poi come spunto per le sue interpretazioni. In La Valle dell'Eden aveva molte scene con Raymond Massey. Jimmy, però, non si limitava a seguire il copione, ma gli piaceva introdurre dei piccoli cambiamenti. E questo faceva infuriare Raymond Massey. Il copione prevedeva che i due attori avessero uno scontro, un conflitto. James Dean allora iniziò a non parlare più con Massey una volta che le cineprese venivano spente, così come durante le riprese faceva di tutto per provocarlo. L'attore minacciò di abbandonare il set per via del comportamento di James Dean, ma il risultato è che rivedendo il film oggi ci si accorge che il conflitto è reale, non è solo recitazione. Jimmy era molto difficile da gestire, ma quando l'ho conosciuto abbastanza bene da poter interpretare i suoi cambiamenti di umore, ho capito che si comportava così per vedere la reazione degli altri. Lui provava tutto. Provava una scena e poi cercava di spiazzare chiunque gli capitasse a tiro, perché questo gli dava modo di studiare le reazioni a qualcosa di inaspettato. Il suo atteggiamento provocatorio a Hollywood gli procura la reputazione di attore difficile. Anche il suo rapporto con il produttore Jack Warner non è facile. Ma affascinato dalle sue recitazioni e dal suo talento in La Valle dell'Eden, il produttore gli offre un altro film, Gioventù bruciata. A raccontarlo il fotografo Danny Stock. Gioventù bruciata si fece solo perché Dean era sotto contratto con la Warner. Nicholas Ray voleva essere il regista del secondo film di James Dean e ha letteralmente scritto il copione per lui. Avevano capito perfettamente di avere tra le mani una potenziale grande star. Non voglio che tu vada alla polizia! C'erano altre persone, perché devi essere l'unico implicato? Perché sono implicato, siamo tutti implicati! Mamma, un ragazzo come me è morto stasera. Queste situazioni mi hanno... Papà, ti prego, aiutami. Ti supplico, cerca di capirmi. Jimmy, tu devi sei tanto capirmi. Giovane. Gioventù bruciata affronta una realtà sociale fino a quel momento ignorata in America. È la generazione post-bellica, una gioventù inquieta e ribelle. Il regista Nicholas Ray capisce che James Dean è perfetto per quella parte. Ce ne parlano il fotografo di James Dean, Danny Stock, e lo scrittore Joe Hames. Se ci fate caso, i suoi fan non citano mai La Valle dell'Eden o Il Gigante. Citano sempre Gioventù bruciata. Pochi attori sono stati in grado di catturare la ribellione dell'adolescenza così bene come ha fatto Jimmy. È stato il primo ragazzo a dire che a volte i genitori hanno torto. Questo è essenzialmente il messaggio di Gioventù Bruciata. Tu dici una cosa, lui ne dice un'altra. C'è quella scena famosa in quel film in cui Dean urla: basta, mi avete rotto i timpani. In quell'ambiente non si possono condurre ragazzi della tua età. E poi lì si ubriacano tutti. Un minuto fa hai detto che non ti importa se beve. Ha parlato di un sorso. Mi avete rotto i timpani! Cosa? Tu dici una cosa, lui ne dice un'altra e poi cambiate le carte in tavola! È possibile che all'epoca della sua morte i giovani avessero bisogno di affezionarsi a qualcuno. È possibile che sentissero il bisogno di trovare un essere umano come loro, da poter trasformare in un simbolo che desse voce alle loro frustrazioni, alle loro inquietudini e alla loro rabbia. Non si tratta solo di avere interpretato un film come Gioventù Bruciata, che ha affrontato quel particolare aspetto dei giovani. La sua morte ne ha fatto una specie di martire. James Dean, strappato alla vita in giovane età, icona della passione e della ribellione, diventa un fenomeno mondiale. La sua immagine viene stampata ovunque. È l'attore che ha lasciato più immagini nella sua breve carriera. Il motivo per cui esistono così tante fotografie di Jimmy è che lui chiedeva sempre di essere ritratto. Chissà, forse presagiva che sarebbe morto giovane e voleva diventare una leggenda. Un giorno andai da lui e gli proposi l'ultimo progetto grandioso. Torniamo indietro e ripercorriamo la tua vita. Ovviamente non potevo sapere che sarebbe morto. Quelle fotografie, quindi, divennero famose al di là di una mia volontà consapevole. Lo divennero e basta. Go play the game that you like. Dennis Stock e la sua macchina fotografica accompagnano Dean nell'Indiana, a Fairmount, dove è cresciuto. Sarà l'ultima visita alla sua famiglia. È il febbraio 1955. Dean chiede a Stock di scattargli una foto dentro una bara. Solo 8 mesi dopo, il suo corpo si troverà nuovamente in una bara. Alla fattoria sembrava star bene, ma dopo averlo fotografato in una bara non stava più tanto bene. Era diventato instabile. Quando sua madre morì, Jimmy era un bambino di 9 anni. Venne a stare qui con i miei genitori. Restò con mia madre e mio padre fino a quando aveva 18 anni. Prese il diploma alla scuola superiore di Fairmount. Per me era come un fratello maggiore. Era il cugino di James Dean, Marcus Winslow. La passione di Dean per le auto lo porta a iscriversi a una vera gara. Ce ne parla il suo amico meccanico George Barris. Ho conosciuto James Dean durante le riprese di Gioventù Bruciata. Sono stato io a personalizzare la Mercury e a lavorare con lui sulla scena della corsa. Ero il responsabile delle scene d'azione e decidevo le modifiche da fare. Diventammo compagni di gare. A Jimmy piacevano moltissimo le auto. Sul set non facevamo che parlare di macchine. Lui si era avvicinato al mondo delle corse e in particolare a quelle tra auto modificate. Abbiamo trascorso molto tempo insieme durante il suo primo periodo da pilota. Gli piaceva la velocità, gli piaceva moltissimo. Quando i bambini andavano a letto, Jimmy mi diceva, allora possiamo? E io rispondevo, certo. Allora uscivamo. Se ricordo bene, a quei tempi aveva la Porsche, un vecchio modello. Io saltavo sulla mia vecchia Buick decappottabile modificata e raggiungevamo la cima di Mulholland Drive. Poi ci posizionavamo a uno stop e James diceva, ok, si parte. Vinceva sempre perché la sua auto era più veloce e lui era più bravo. Tutti sapevano che avrebbe partecipato alla corsa di Palm Springs a Santa Barbara. Pensavano, è arrivato il giovane attore, che ne sa lui delle corse? Phil Hill, uno dei migliori piloti del mondo, mi disse che gli altri piloti, prima di scendere in pista, avevano paura di lui, ma durante la gara si dimostrava uno dei piloti più corretti che avesse visto. Non ha mai messo in pericolo se stesso o gli altri. Era un ottimo pilota, soprattutto considerando la sua breve esperienza e le abilità che stava sviluppando. Sarebbe potuto diventare un grande pilota. Sapeva sfruttare tutte le opportunità che gli si presentavano. Qualcuno lo giudicava uno spericolato, uno sciagurato che non si preoccupava del pericolo di morire in un incidente. Ma questo non è vero. Dean era un pilota eccellente. Se vuoi gareggiare e vuoi vincere, devi saper sfruttare le occasioni o perlomeno sapere cosa fare. Fin dal suo esordio dimostra talento e carattere, è adorato dal pubblico e ha la passione per le auto da corsa. Questo però preoccupa la Warner. Per paura che un incidente possa compromettere la lavorazione del gigante, i produttori impediscono a Dean di guidare fino al 1 ottobre, cioè il giorno della gara a Salinas. Jimmy mi chiamò per sapere se mi andava di accompagnarlo. Stava andando in un circuito a provare la nuova Porsche che aveva comprato. Non potevo andare con lui. Il giorno dopo dovevo essere in Messico per un colloquio. Allora provò con altri 2 o 3 amici. Voleva avere qualcuno vicino a lui, ma nessuno era disponibile. Stavo lavorando in Svizzera, ma avevo un gran bisogno di vederlo. Ero lì per un film. Perciò ho preso un aereo e un amico comune mi è venuto a prendere all'aeroporto di Los Angeles. Siamo andati subito a casa di Jimmy. Ricordo che mi ha chiesto, vieni ad una gara con me questo weekend? Gli ho risposto molto volentieri. Poi però qualcosa mi ha spinto a dire, no, non posso. Non ho idea del perché. Mi è venuto così, di getto. No, scusa, non posso. Il giorno prima della sua morte, la Porsche di James Dean è finalmente pronta. Joe Ames lo accompagna a ritirarla. Quando siamo andati all'autosalone a ritirare la Porsche, era molto emozionato. Non avevo capito quanto fosse eccitato finché non ha iniziato a parlarmi del suo ultimo acquisto, descrivendo ogni minimo particolare dell'auto. Passammo 4 ore in piedi di fronte alla Porsche a parlare di ogni suo dettaglio. Ne andava molto fiero. Credo che la amasse più di quanto abbia mai amato una donna. A Hollywood vige lo Star System. Un produttore come Jack Warner non può permettere che un altro studio sfrutti commercialmente la popolarità di Dean. James Dean è stato uno dei primi divi a firmare un contratto per 9 film. Lo ha firmato l'ultimo giorno della sua vita. C'erano anche Jack Warner e il regista George Stevens. Warner intendeva controllare Dean e l'unico modo era fargli firmare un contratto per 9 film per $1 milione. All'ultimo momento, però, abbassò la cifra a $997.000, in modo che Dean non arrivasse alla soglia psicologica di un contratto da $1 milione. Dean si sente onorato. Dopotutto, può scegliere 3 dei 9 film previsti dal contratto e poi può dedicarsi alla regia. La notte prima di morire venne a casa mia per parlarmi. Aveva intenzione di realizzare una versione in chiave moderna di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mi sembrò un soggetto perfetto per lui, perché Jimmy aveva una personalità schizofrenica, così mutevole. Ne parlammo un po' e venne fuori qualche idea. La sua presenza avrebbe, per così dire, finanziato il film, mentre io avrei dovuto scrivere il copione. Aveva grandi progetti per il futuro. Voleva diventare regista. Non voleva rimanere solo un attore. Per lui, la recitazione era una partenza del percorso per diventare regista. Quando comprò la sua prima macchina fotografica, iniziò a scattare tantissime foto. In tutto quello che vedeva c'era una scena potenziale. Su Sunset Boulevard scende la sera. James Dean prenota per l'ultima volta al Boogie, un bar di tendenza, dove i nuovi divi di Hollywood vanno ad ascoltare la musica. Dean suona insieme a Todd Bell e ce ne parla il figlio di Bell, William, e i suoi amici. Mio padre suonava il bongo, lo faceva insieme a James Dean, e James Dean, dopo le riprese, andava sul Sunset Boulevard, ascoltava la musica di mio padre e di Bob Romeo e dopo un po' saliva sul palco, si sedeva accanto a mio padre, con Bob Romeo al flauto. Gli piaceva molto disegnare e dipingere. Ho visto i suoi disegni e i suoi quadri. Possedeva una forte vena artistica. Quando stava a casa, la maggior parte del tempo la passava a disegnare e mi diceva: «Perché non disegni anche tu?» La gente si identifica in lui sotto diversi aspetti. C'è il ragazzo di campagna dell'Indiana, il bellissimo atleta, lo studente del liceo, il bohemien di New York, la star di Hollywood. Per giunta dipingeva e suonava il bongo. È proprio questa sua ricchezza, questa sua complessità a permettere a così tante persone di trovare una caratteristica in cui identificarsi. Io credo che fosse soprattutto curioso. Non penso che avrebbe necessariamente avuto lo stesso successo in altri campi. La mattina del 30 settembre 1955, James Dean attraversa Los Angeles per l'ultima volta. Per contratto non potrebbe mettersi al volante. A parlarcene è sempre il suo amico meccanico George Barris. Lo abbiamo incontrato prima che partisse, mentre scendeva dalla macchina con Hickman e Sandy Roth. Sono andati fuori dalla stazione di benzina e la Porsche era sul rimorchio. La tiro giù perché voleva guidarla subito. Ovviamente Bill e gli altri gli dissero: «Non farlo, non puoi guidare per 300-400 miglia fino a Salinas per una gara». Rispose: «Voglio prendere confidenza con la macchina, dobbiamo diventare una cosa sola». Questo è uno dei motivi che lo ha portato alla tragedia. È una tragedia che sembra inevitabile. Né il divieto imposto dalla Warner né le centinaia di miglia che lo separano da Salinas possono fermarlo. James Dean si mette al volante, accelera e si dirige verso l'ultimo bivio. Arise like applause in my head. Gli piaceva togliere il piede dall'acceleratore e poi schiacciarlo fino in fondo. Jimmy guidava veloce, superò il limite della velocità e prese una multa. Abbiamo ricostruito il percorso dal momento in cui ha preso la multa fino al momento dell'incidente. Ha guidato a una media di oltre 110 km all'ora, dal punto in cui è stato intercettato dalla stradale a quello in cui è avvenuto l'incidente. Ma noi sappiamo che in questo lasso di tempo si è fermato almeno una volta, quindi andava molto più veloce. Quel 30 settembre la strada puntava dritta verso il sole. Invece di essere a quest'altezza, il sole era qui giù, dritto negli occhi dei guidatori. Non c'erano ancora le alette parasole per proteggere gli occhi. Dean aveva il sole dritto negli occhi. Jimmy guidava un'auto bassa, di colore argento. che si confondeva con la strada della collina dietro di lui. E di sicuro la persona che ha fatto quella manovra di fronte a lui l'aveva già fatta un centinaio di volte nella sua vita, perché abitava in quella zona. Il rapporto della stradale sull'incidente evidenzia due segni di frenata, una lunga 15 metri circa e, dopo un'interruzione, un'altra di quasi 20 metri. Quando Tarmsid ha frenato, ha perso il controllo dell'auto che ha invaso la corsia di destra dove si trovava Jimmy. In quel momento particolare, James Dean se n'è andato all'apice. Guidava una bellissima auto di lusso, andava veloce come il vento che gli scompigliava i capelli e stava andando a partecipare a una gara. È andata così. Quale modo migliore di morire che facendo ciò che si ama? È come morire mentre si fa sesso. Fantastico. James Dean muore sull'ambulanza mentre Donald Tamsid ne esce illeso. Tutte le persone coinvolte nell'incidente erano innocenti. La vita di Donald Tamsid non fu più la stessa. Era uno studente e dovette lasciare il college. Per tutti era colui che aveva ucciso James Dean. Le persone lo insultavano, lo perseguitavano, lo accusavano. Donald Tamsid ha sempre rifiutato di rispondere alle domande e non ha mai rilasciato un'intervista. È stato addirittura minacciato di morte e ha vissuto sempre con la paura di essere aggredito. Abbiamo provato diverse volte a intervistarlo, ma fino al giorno della sua morte ha sempre rifiutato. La notizia della morte di James Dean si diffonde rapidamente. La mattina seguente l'incidente è su tutte le prime pagine dei giornali. L'effetto Dean è immediato. Al suo funerale, una settimana dopo l'incidente, partecipano 5.000 persone. Same old scenario, same old rain. And there's no explosions here. A un certo punto spuntano le profezie, per esempio la pubblicità per un'automobile che Jimmy aveva fatto con Jig Young. Ciao, Jig. Oggi abbiamo invitato Jimmy perché è un pilota vero, non un pazzo. Jimmy, di sicuro molti giovani stanno seguendo il nostro programma questa sera e vorrei che tu ci dessi la tua opinione sul correre in auto. Tu credi che sia una buona idea? Bella domanda. Un tempo andavo in giro a gran velocità, correndo come un pazzo, su strade normali. Poi ho iniziato a gareggiare e adesso, quando sono in strada, uso la massima cautela, perché sembra che nessuno sappia quello che fa. Non so cosa aspettarmi dalle macchine che incontro per strada. La gente dice che le gare sono pericolose, ma io so che se devo rischiare è meglio farlo in pista, non in strada. Bene, Jig, ora devo andare. Aspetta un momento, ho un'altra domanda. Hai qualche raccomandazione da fare ai giovani al volante? Guidate piano. La vita che salverete potrebbe essere la mia. And so it is, just like you said it would be. I seguaci del culto di James Dean parlano di questo spot come della profezia pubblicitaria. Anche alcune fotografie sono interpretate come profezie. La più famosa è quella scattata da Dennis Stock, che lo ritrae seduto in una bara. Un'altra fotografia profetica di cui parlano i suoi fan è quella in cui James Dean e suo cugino Marcus, che all'epoca aveva 9 anni, sono ritratti accanto ad una lapide con inciso il cognome Dean. E questo alimenta la credenza che ci siano stati dei segni profetici prima della sua morte, che lui sapesse che sarebbe morto. In effetti, ci sono molti elementi che combaciano. Il paragone può sembrare empio, ma c'è una certa contiguità con Gesù Cristo. C'è un simbolismo molto vicino. Dopotutto, la sua fotografia in posa crocifisso è una delle più amate. Tutto questo insieme a una sapiente campagna pubblicitaria ha fatto sì che il fenomeno andasse avanti per anni. Sono stati investiti molti soldi nell'immagine di James Dean e naturalmente ci sono stati subito degli astuti uomini di marketing che hanno tirato fuori nuovi prodotti e gadget, che so, i posaceneri, da cui trarre profitto. Fa parte del gioco, la pubblicità ne è una componente principale. Ciao, Jim. Jimmy. Jimmy, come lo sai? Ti verranno a cercare. Non ho avuto paura. Hai visto dove ho saltato? Cosa potevo fare, uccidermi? A loro questo non interessa. Tu hai l'aria ancora molto sconvolta, eh? Un po' stordita. Pensa che strano. Quando sono uscito questa mattina, il sole splendeva, il cielo era azzurro, eccetera, eccetera. E per prima cosa ho visto te. E allora mi sono detto, Jim, questo mi sembra un giorno eccezionale, quindi è meglio viverlo bene, perché forse domani non sarai più nulla. Annalena Benini, giornalista e autrice di una delle rubriche di punta del Foglio. Esiste oggi un'icona ancora come James Dean? Un'icona come James Dean? Direi di no. Direi che l'ideale del bello dannato e del ragazzo tormentato che appunto fa una vita sregolata e muore giovane è stata sostituita da un'idea di grande salutismo e di grande prudenza, quindi anche rispetto al modo di vivere. Siamo molto più in ascolto di noi stessi e quindi molto attenti alla nostra salute fisica e mentale, quindi più che James Dean insomma penso a un, non so, a un grande dietologo, ad esempio Pierre Dukan, insomma qualcosa di diverso. Chiaro. Rispetto al... Ma possiamo dire che le donne oggi non sono più affascinate dal bello e dannato? Non so se non ne subiscono più il fascino, di certo però hanno come punto di riferimento il padre ideale dei propri figli, non so, penso ad esempio a Brad Pitt, no? l'ideale dell'uomo è sicuramente bello, che però viene salvato e diventa quindi il padre materno, il babysitter pazzesco e anche la spalla e il grande uomo dietro. Cioè, quindi donna. Abbiamo trasformato il macho, lo abbiamo ucciso? Ebbene, l'abbiamo trasformato in in qualcuno di più utile. Ecco, che possa passo magari in avanti. Anche lavare i piatti. Un passo in avanti, allora. Ma sì, da un certo punto di vista, sicuramente da un punto di vista egoistico, un passo in avanti. Da un punto di vista romantico, l'abbiamo normalizzato. Vivi veloce, muori giovane, sì un bel cadavere, frase celebre di James Dean. Quale potrebbe essere oggi lo slogan per un'icona di Hollywood? Vivi sereno, sii prudente, come... Beh sì, mangia sano, molte proteine, vai a letto presto la sera. Credo che sia, resta magro, soprattutto. Ma può essere che le icone oggi non nascono più ad Hollywood? Mi viene in mente Steve Jobs. Beh, sicuramente in un momento come questo siamo talmente abituati appunto alle stelle di Hollywood che forse la nostra attenzione, la nostra ammirazione vengono più catalizzate da un altro tipo di creatività. E in questo caso torna la sregolatezza in questo tipo di creatività, infatti ricordiamo, lo sanno tutti, lo slogan o comunque il consiglio che dava Steve Jobs agli studenti era siate affamati, siate folli, ma siate affamati e siate folli con il cervello, con la voglia di inventare qualcosa di nuovo, di cambiare il mondo da un altro punto di vista, ecco, in un lato più, diciamo, cerebrale dei nostri giorni. Meno artistico, cioè, forse. Sì, ecco, meno patinato. Sì, sicuramente meno patinato, perché siamo talmente abituati alle stelle di Hollywood che, ad esempio, anche il matrimonio di George Clooney ci fa un po' sbadigliare. Non è più quella grande favola che poteva essere appunto quella di James Dean, nato in una famiglia di quaccheri e poi diventato una stella internazionale e famosissimo, e poi con una fine così tragica che l'ha reso eterno. È tutto molto più... Ha perso un po' appeal. Sembra una cosa un po' già vista. Sarà che si vengono tutti a sposare in Italia. Che, insomma, tutti questi grandi VIP che arrivano sulla gondola, sul vaporetto, cioè li abbiamo già visti mille volte, non è più la... Un po' la grande bellezza è arrivata a Hollywood, no? Sì, è arrivata a Hollywood e soprattutto l'abbiamo vista e stravista, ci fa un po' annoiare. Nel momento in cui abbiamo commentato il vestito della moglie di George Clooney è finita e lì. Pensato chissà se si amano davvero o chissà se è solo così un colpo di teatro, già siamo passati ad altro. Grazie, Annalena. Arrivederci.